Bello pappagallo, tutto verde l'occhio giallo. Cosa fai? Che cosa vuoi? Parli, parli, parli, parli. Parlo, parlo, parlo, parlo. Ma che bello pappagallo, tutto verde l'occhio giallo. Ma che bello pappagallo. Parlo, parlo, parlo, sì. Ma che triste pappagallo, tutto verde l'occhio giallo. Se sei triste cosa fai? Canti, canti come un gallo. Canto, canto, canto, canto. Sono un triste pappagallo, sempre solo come un gallo. Sono un triste pappagallo. Canto, canto, canto, sì. Sempre solo come un gallo. Sono un triste pappagallo. Pappagallo poverino, tu sei vecchio, sei bambino. Chi lo sa quanti anni hai? Un bambino di 20 anni. Piango e rido, piango e rido. Pappagallo poverino, ho 100 anni e sono un bambino. Pappagallo poverino, ho 100 anni e sono bambino. Pappagallo poverino. Pappagallo brasiliano, il Brasile ormai lontano, tu che libero sei nato, te lo sei dimenticato. Tu che libero sei nato, te lo sei dimenticato. Parli forte e pensi piano, pappagallo brasiliano. Te lo sei dimenticato. Parli forte e pensi piano, pappagallo brasiliano. Cinque, sei, un saltino e sono sulla gamba di costei. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, mi permette un morsettino, scusi, non ce l'ho con lei. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, la pancina adesso è piena, ciao, goodbye, auf Wiedersehen. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, un saltino e sono sulla gamba di costei. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, mi permette un morsettino, scusi, non ce l'ho con lei. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, la pancina adesso è piena, ciao, goodbye, auf Wiedersehen. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, un saltino e sono sulla gamba di costei. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, mi permette un morsettino, scusi, non ce l'ho con lei. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, la pancina adesso è piena, ciao, goodbye, auf Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era il vasino lì.

quando tu sei giù, ti riporta su, ti fa sorridere pure se non ti va. Tira su, tartacunziu, bene fa, tartacunzia. Se il mondo è fatto a scale, tu prendi l'ascensore. E se un amore va, c'è un altro amore. E se la settimana è stata un po' una frana, non ci pensare più, perché si sa, arriva il sabato e ogni cosa cambierà. Se c'è tartapunzie, e se no tartapunzio. Guarda quante stelle, ce n'è una in più. Spuntano le rose sull'asfalto blu. Sali allegramente sulla giostra dove c'è tartapunzie. Dove sta tartapunzia? Pianta tutto lì, vieni via con me. C'è tanta musica tutta per te. È una festa boom, guai a chi non c'è. È uno spettacolo tartapunzie. Ma cosa stai facendo? Ancora non ti muovi. La festa che ti do, ma dove la trovi? Ma forse tu mi snobbi, perché coltivi un hobby. E non esagerare a lavorare. Ragazzi, è sabato, venite tutti qua con me. Tartapunzie, è uno show tartapunzio. Guarda quante stelle, ce n'è una in più. Spuntano le rose sull'asfalto blu. Sali allegramente sulla giostra dove c'è tartapunzie. Dove sta tartapunzia? Pianta tutto lì, vieni via con me. C'è tanta musica tutta per te. È una festa boom, guai a chi non c'è. Tutti ne parlano e sai perché. È uno spettacolo tartapunzi, tartapunzi, tartapunzi, tartapunzi. Hey! Passeggiando per i giardini vedo un gruppo di bambini che felici e contenti stanno al parco divertimenti. Corro in fretta e di gran lena, balzo sopra l'altalena e con spinte assai potenti faccio gara insieme ai venti. L'altalena va e viene va, l'altalena va e viene va, l'altalena va e viene va, l'altalena va e viene va, l'altalena va e viene va, l'altalena va e viene va, l'altalena va e viene va e non si fermerà. Verso il cielo sto volando e il mio cuore sta cantando. un'isoletta sul mare blu, la stradina che porta giù, sulla riva una casa c'è, dove i bimbi fa il giro tondo, con le api che fanno ed il cane che fa ed il corvo che fa, tutti insieme canteremo bimbo bambi bombo bimba bomba bamba bumba bombi bombi bim bumba bimbo bambi bombo bimba bomba bamba bumba bombi bombi bim bumba bim bumba bim bumba bim bumba. Bombi bim bumba bimbo bambi bombo bimba bomba bamba bumba bombi bombi bim bumba bim bumba bim bumba bim bumba bimbo bambi bombo bimba bomba bamba bumba bombi bombi bim bumba bimbo bambi bombo bimba bomba bamba bumba bombi bombi bim bumba bimbo bambi bombo bimba bomba bamba bumba bombi bombi bim bumba. Sono lieve, cosa sono? Sono la neve! Sono bella e profumata, quasi sempre delicata. Il mio gambo ha tante spine, attenzione alle manine. Colorata e odorosa, cosa sono? Quando c'è la gran calura, io ti do la bronzatura, ma attenzione alla scottata, se hai la pelle delicata e la notte non mi vuole, cosa sono? Sono il sole! Ho un profumo delizioso che di me ti fa goloso, se mi mangi un po' tantino ti farò male al pancino, di cacao io sono fatto, cosa sono? Intero non sto dritto, in camicia vengo fritto, puoi mangiarmi in insalata oppure dentro una frittata, nel pollaio io mi trovo, cosa sono? Sono l'uovo! Nella notte scura e nera posso essere tutta intera, oppure mezzo pure un quarto, quando spunta il giorno parto, come me non c'è nessuna, cosa sono? Sono la luna! Fatto d'acqua son bagnato, sono azzurro un po' salato, sulle onde puoi vedere, barca vela a tuo piacere, vieni pure qui a nuotare, cosa sono? Sono il mare! Con la musica diverso, ma non sono un gran concerto, sono una canzoncina con il testo che fa rima. Oh che bello, cosa sono? l'elefante con le ghette, la giacchetta e le scarpette, passeggiava nel Sahara, sulle spalle una zanzara. Ma perché? Chi lo sa? Mai nessun ce lo dirà, mai nessun ce lo dirà. Un leone col berretto appoggiato a un parapetto se ne stava ad osservare una casa in mezzo al mare. Ma perché? Chi lo sa? Mai nessun ce lo dirà, mai nessun ce lo dirà. Un gattino e un can barbone si dribblavano a pallone, arbitrava un topolino che suonava il fischiettino. Ma perché? Chi lo sa? Mai nessun ce lo dirà, mai nessun ce lo dirà. Due formiche rosse e nere, a braccetto un formichiere, se ne andavano allo stadio sulle onde della radio. Ma perché? Chi lo sa? Mai nessun ce lo dirà, mai nessun ce lo dirà. Sopra un ramo un pesce cane si mangiava una banana e una scimmia americana stava dentro ad un tegame. Ma perché? Chi lo sa? Mai nessun ce lo dirà, mai nessun ce lo dirà. Una lepre messicana rincorreva più non posso una tartaruga strana che teneva in bocca un osso. Ma perché? Chi lo sa? Mai nessun ce lo dirà, mai nessun ce lo dirà. Voi lo avrete ormai capito, lo strambotto è già finito, non toglieteci il saluto, se scherzare abbiamo voluto. Ma perché? Chi lo sa? Mai nessun ce lo dirà, mai nessun ce lo dirà, mai nessun ce lo dirà. Din din dan, din din din dan, din din dan, din din din dan, din din dan, din din din dan, din din dan, din din din dan. Ho visto una mucchetta bianca e blu in mezzo a un prato che mangiava solamente fiorellini colorati. Din din dan, din din din dan, din din dan, din din dan. La campanella che teneva al collo la suonava a tempo di guaraccia perché Tintorello si era innamorata. Din din dan, din din din dan. Il latte lo faceva colorato, a righe bianche, rosse, verdi e blu. E quando si incontrava in mezzo al prato, col suo torello non brucava più. Ma gli suonava una dolce serenata con la campanella a tempo di guaraccia che ballava accompagnandosi col din din don, din din don, din din don, din din don, din din don, din din don, din din don. Din din dan, din din din dan, din din dan, din din din dan, din din dan, din din din dan. Passando l'altro giorno ho rivisto la mucchetta in mezzo al prato e lì mi disse che Torello me lo so scusato. Din din dan, din din din din dan, din din dan, din din dan. E da quel sogno tanto bello le era nato un bel vitello bianco e blu color del fieno e si chiamava Arcobaleno. Din din dan, din din din dan, din din dan, din din din dan. Era sempre colorato, a righe bianche, rosse, verdi e blu. E sempre si incontrava in mezzo al prato, il suo torello non brucava più. Ma gli suonava una dolce serenata con la campanella a tempo di guaraccia che ballava accompagnandosi col din din don, din din don, din din don, din din din don. Din din dan, din din din dan, din din dan, din din din dan, din din dan, din din din dan, din din dan, din din din dan, din din dan, din din din dan, din din dan, din din din dan, din din dan, din din din dan, din din dan, din din din dan, din din dan. Nel Colorado esiste un violino spronato da un vecchio cowboy che con due cents e un bicchiere di gin racconta la storia dello West. Quando alla sera incomincia a suonare, lo stanno tutti ad ascoltare. Dalle sue corde d'argento e d'oro si espandono suoni e colori. E dalla prateria si sente risuonare un canto d'allegria. Sono la voi dal ciel che fanno il coro al magico e dolce violino suonato dal vecchio cowboy che con due sense e un bicchiere di gin racconta la storia del West. Stanno tutti ad ascoltare. Dalle sue corde d'argento e d'oro si espandono suoni e colori. E dalla prateria si sente risuonare un canto d'allegria. Sono i cowboy dal ciel che fanno il coro al magico dolce violino suonato dal vecchio cowboy che con due senza un bicchiere di gin racconta la storia del West. Entra nel fiume, questi si allarga e si butta nel mare. Se tutta l'acqua prima era dolce, or non lo è più, si sa di sale. Pim pirim pera, pim pirim pa, pim pirim pera, pim pirim pa, pim pirim pera, pim pirim pi, e la natura è bella così. A grandi falde la neve vien giù, copre la terra che presto si imbianca. Forse può darsi che sotto il peso la vecchia terra si senta stanca. Pim pirim pera, pim pirim pa, pim pirim pera, pim pirim pa, pim pirim pera, pim pirim pi, e la natura è bella così. D'estate abbaglia, il grillo canta in mezzo alla paglia, una cicala gli fa da coro cantando un inno al sole d'oro. Pim pirim pera, pim pirim pa, pim pirim pera, pim pirim pa, pim pirim pera, pim pirim pi, e la natura è bella così. Tutta colori sul verde prato, volteggia allegra una farfalla nell'aria azzurra fra ghirigori ed ogni tanto riposa sui fiori. Pim pirim pera, pim pirim pa, pim pirim pera, pim pirim pa, pim pirim pera, pim pirim pi, e la natura è bella così. Pim pirim pera, pim pirim pa, pim pirim pera, pim pirim pa, pim pirim pera, pim pirim pi, e la natura è bella così. Pim pirim pera, pim pirim pa, pim pirim pera, pim pirim pa, pim pirim pera.